No. E Giommi. Sì. Mister. Buongiorno. Veroni, dovrebbe essere tutto bene. Non ci possiamo lamentare per essere peggio, meglio così, dai. Cosa puoi pretendere di più? E via. Sei ancora a casa, sì. Ma di Rogero. Già è vero, con questa bella giornata potevo andare a farmi una scampagnata, però poi ho detto di no. C'è un bel segnale, oggi è pulito, sei a fondo scala con Radio 5. Perché sono scherzi? Adesso lo uso poco, il Cobra, non uso pochi niente, ma ogni tanto bisogna anche accendere a farlo stare. Sembra che funzioni bene. No, gli ho staccato il culo a Renu, ma la so. E male fai a non usarlo, perché bell'eco, una modulazione davvero molto molto bella. Un segnale pulito proprio a niente, completamente il QRM. E segnale pulitissimo, sembra NFM. Se visto già. Allora, dove ti trovi? Piano Cratere? No, negativo. PH Astronauti. Allora siamo vicini di Nadina, perché forse a 9:20 si può fare, ma se lo sarà per bene, tranquilla, dai. 9:20, così poco bene. Buongiorno, prego. Buongiorno, Massimiliano. Tanto buongiorno, anche a Gian Maria, buongiorno. Ciao, ma è troppo piena quella radio, ma smetti, non può suonare. Com'è la sua radio? Ehi, figlia, sembra un po' piena, prova a fare un passaggio del suo volume. Guarda, Daniele, non lo so cosa devo fare, perché io non la uso così, non la uso mai niente, mi ha detto stiamo andando bene, prova a vedere. Va bene, la mia recensione, ripeto, troppo forte rimane, capito? Troppo piena, ecco. E perlomeno a me è così, Massimiliano. Non è perfetta chiara, capito? Rimane un po' piena, ecco. Ma lì cosa devo fare? Devo abbassare qualcosa? Beh, prova a abbassare l'amplificazione appena, per me però, ripeto, no? Le recensioni non sono uguali da una all'altra, cambiano, ma magari, riesco a capirci benissimo, potrebbe anche andare bene, però se passare appena. Le amiche miei a due, ho abbassato quello del microfono, vedo un po' se ha peggiorato o migliorato, ci sono i tuoni qua, vedo un po', mi li sto abbassando, così è come li uso sempre, diciamo a metà, vedo un po'. Ma questa mi piace di più, questa è più perfetta, ma tu. Allora, cosa succede? Che hai un microfono che pesca un po' di tutto, nel senso che ti impasta un po' la voce quando si alza la potenza. Rimetti la potenza al massimo e gioca con i toni, perché il volume andava bene, però è poco selettivo il microfono, quindi tutto quanto alla fine ti fa la voce poi passata, capito? Guarda, così ho aumentato un pochettino i toni, li ho messi a 7, vedo un po' se ha migliorato qualcosa. Così ha peggiorato, devi... L'amplificazione la metti al massimo e i toni li metti al minimo. Allora, non sono al minimo, ma così credo che non vada bene. Prova a vedere. Difatti negativo, non va bene, non va bene. Prova a fare il contrario. Ma in genere io la uso così. Così, vedi un po'. Allora, posso ancora abbassare un attimino la radio, il mic della radio. Ho abbassato ancora un velo, vedi un po'. Il problema è che ti stai, è come se ti stessi allontanando, non dal microfono, proprio a livello di presenza. Il microfono pesca tutto, si sente la ventola che c'hai accesa, ormai se chiudono la porta di casa si sente lo stesso, e mi dica molto molto sensibile, capito? Lo so, però a me la ritardo è sempre il tanto del mio braccio, diciamo, io lo uso così, con il braccio tutto disteso, sarà intorno ai 50 centimetri dal microfono, più o meno. Possibilità di chiudere un pochettino la sensibilità, perché l'amplificazione è un conto, però se tu diminuisci l'amplificazione rimane come un microfono molto aperto, ti abbassa solamente il volume, però diciamo che tutti i rumori della stanza te li porta dentro comunque, capito? Ma guarda così se ha migliorato o peggiorato qualcosa. Ma così non so cosa hai fatto esattamente. Chiudo le magie del microfono, solo a 1,5. Così non hai presenza, però nel senso che sembra proprio che sei indietro, molto indietro. Ti riesci un attimino a aumentare adesso in qualche modo? Ma così posso aumentare le magie della radio. Guarda a vedere se ha migliorato un po', ma così ce l'ho a 3,5. No, mettilo per rilassare un po'. È così? No, sei adesso perché non si sente l'amplificazione, capito? Così invece? E stai migliorando, però si sente sempre quella con la ventola, mi chiede si sente tantissimo. E io ci posso fare, questa è l'avventura dell'alimentatore. Dovresti riuscire a chiudere la selettività del microfono, nel senso che quante manopole hai, il microgain, dopo che c'hai, cioè, i lettoni e basta. Allora secondo me lì ti può aiutare Gigi Vulcano mettendo sulla capsula del microfono un coso, una resistenza, perché qualcosa di più, tipo una da 1008, una cosa del genere, e riesci a chiuderti un po' di frequenza di microfono. No, qui non mi può aiutare nessuno, dito non lo tocca a nessuno, se non che lo tocco io, basta. C'è bisogno di Gigi Vulcano per mettere una resistenza. Eppure questo qua è stato già modificato il microfono, ecco, sicuramente sarà per questo motivo, ho capito. E niente, dai, vabbè. Posso solo lasciarla così, e basta. No, qui stai andando bene, attenzione. Oh, rispetto, sembra che rispetta quello che possa dare la radio, che si sente che è una radio che spinge. Secondo me non è abbinato al massimo, nel senso che troppo dentro, troppi rumori, si riesce a chiudergli un po' di frequenze, è una bomba, capito? Chiamato? Tu? Dimmi Giovanni. Sono scendo, dai, ci metto di tornare, dai, buona domenica, sì, a Massimiliano, sto uscendo. Grazie, la chiacchierazione e buona giornata. Risvegli, Massimo. Dai, buon proseguo di giornata, buon pranzo quando lo farai e alle prossime. Ci sentiamo, ciao, avanti a tu. Gamba, Giovanni, mi hai sentito? Ci sentiamo alle prossime, buona domenica, buon proseguimento, buona carica quando la farai. Ma tu, io ho un altro paio di passaggi, poi la sua lo stesso, che sta iniziando la Formula 1. E Capaide è un compattante, me la devo guardare anche, ascolta, ma nel caso hai un parente che lavora in Piazza Salvatore Ruffo, in una ditta? Cos'è? Quella che fa pompe sommerse. No. Un cugino di lontano, diciamo, si chiama Antonio come te. E K, quello che stai dicendo, quello lì? Sì, quello è mio cugino. Perché immagina il riferimento che mi avevi fatto, dove abitavi, piantare lì, che adesso non c'è più, di quella ditta lì, era proprio vicino a casa vostra. Positivo, sì. Lui abita un 400-500 metri prima di me, là. Il proprietario è morto, signor Melis, abita a 300 metri dalla casa, abitava là. Quindi anche il parente di Giacomo? Con mio cugino, Giacomo abita più giù di casa. Sempre lì andrà ai punti. Adesso non vorrei sbagliare, ma forse si è trasferito nella via opposta. Capito? Mi sembra che sia solo adesso, credo. Lo so che c'era stato qualche problemino, però bravo ragazzo, ma sta ancora cantando. Ehi, anche di più, tu togliere la chitarra e il microfono. Sì, ma poi stava in un gruppo che era di quelli della pillola del giorno dopo, non so come si chiamava. Sì, ancora lì, è ancora lì. C'è anche su Facebook qualcosina, dove delle prevendite stanno dando, non so cosa, dove devono andare. Ma in famiglia è a posto, nel senso che ci sono tutti, signor Paolo e... Sì, tutti quanti, Adriana, Maria Grazia, tutti, sì, per quello già sono ancora tutti uniti, diciamo, dai. Ricordo sempre questo cancello dove tra l'altro c'era la scritta cognome fatta in ferro, se non sbaglio. Sì, però quella lì era, diciamo che quella lì c'era scritto villa e cognome fatto in ferro, cancello nero, quella era la nostra zia. Poi R sembrava una K, invece finire con Ro finiva con Co. Sai che loro hanno un impetto, mangiano e comunque c'hanno le cucine con la pasta. adesso diciamo che la cosa ha peggiorato, perché adesso c'è un allevamento di cavalli, capito, proprio attaccato alla loro, c'è tipo un maneggio, diciamo, fanno un'inseminazione artificiale. Ho capito, ma è quello che mi aveva detto, per quello che ti ho detto che l'hanno trasformata in una stalla. E la tranquillità che gli dava signor Nino era un'altra cosa, sicuramente, perché c'erano ottimi rapporti. Invece, comunque, con voi non so neanche da dove venga, so che dall'inizio hanno avuto seri problemi, capito? La cosa, Giacomo si è sposato? Sposato, cosa? Come si è sposato, no? No, Giacomo, si è mollato ancora di nuovo la tipa, Giacomo, magari, scusate la frase. Cazzo, no, perché non lo conosco, figurati, assolutamente. Ah, quindi ecco perché l'ho visto, era tutto l'ultima volta l'ho visto, ma proprio sfuggita alla festa di, ricordo, sarà carico, dove era. libero. Secondo me non sei sano. Ah, è Grodin. Ma tu vedi. Che da segnare io ti sembra? No, negativo. Io non so, la gente. Secondo me non è sicura di Gabbo, 20 minuti di canzone sassarese. Piacevole, però se fino a un certo punto. Bobo. Sì, vabbè, forse è un modo per far vedere che il canale è occupato e per far entrare la gente. Sì, vabbè, non è il caso. Ciao già, e beh. Ti sei vammene giù. E adesso mi faccio il letto. E poi me ne esco. E fai bene. Poi oggi è una bella giornata, guarda, non c'è vento, c'è un bel sole. Ma non mi interessa, devo fare cosa qui. Sono occupato, ho un impegno, per cui del tempo non me ne fatti nulla. Devi andare a messa. Non è negativo. Va bene per il resto. Tu e tu andando. Andando, se hai dovuto andare a lavorare invece. Invece niente, mi hanno dato, sono riuscito ad avere la postazione fissa ogni fine settimana, però se continua così mi sa che ho regalato soldi al comune e basta. E dove? Da Cazzello. Ah, ma domenica so? Negativo, venerdì, sabato e domenica. Ma paga, e beh, conveniente, No, ma certo che è conveniente. Non pensare che sia conveniente, che sia così conveniente, però è conveniente. Vabbè, poi adesso c'è un'altra attività, quindi già va bene, dai. Beh, stai facendo, anche le cose, come si chiama? Non mi viene. Che cosa, specie di piadine? No, negativo, non sto dicendo quello, sto dicendo le cose, le crepe, no. È proprio completamente diversa l'attività, nel senso che distributori automatici. Quelli meccanici. E ma di oh, vari prodotti, tra cui spazzolini, quelli monouso. No, roba alimentare. No, negativo. Quella è una cosa già piena, nel senso che il settore è già coperto, come si dice, no? Il mercato è già chiuso, dai. Vabbè, dai. Sta andando bene questa perfetta. Ancora non si vede, sono a lungo, come si può dire, i guadagni non li vedi subito, capito? Devi aspettare un attimino e solo a seguito di un paio di mesi capisci se la cosa sta andando bene o meno, cioè sono guadagni a lungo termine. E io lo riprovo. Esatto, però il problema è che c'è un investimento dietro che è abbastanza gravoso, capito? E vabbè, se non si riesca non si rosica. Cioè, è vero, anche quello. E per il resto? Ma per il resto tutto qui. Io ieri sera ero in radio, ma tu non c'eri. E in radio c'era Antonello, c'era Pomponio, eccetera. Siamo stati un po', poi meglio me ne sono andato perché niente, non avevo più voglia, sono andato a vedermi un po' di TV. Era anche stacco, me l'ho fatto, me l'ho guardato da Raia che mi sono voluto dormire. Ieri sera avevo ospiti, per quello non sono potuto entrare, ma mi hanno fatto un pochettino a pezzi, vabbè, giustamente, più o meno giustamente. Mi hanno fatto a pezzi? Già, non ho capito. Dove ti hanno fatto a pezzi, ma gli ospiti? No, in radio, ma non a pezzi, siccome ieri ho cercato di fare uno scherzo che però è durato un giorno, ho capito. Appaga. No, sono al corrente. No, niente, che sono andato a fare l'esame giù da radioamatore, capito? Sì. Avevo detto che mi avevano bocciato, invece realmente l'ho passato e siamo in due a sapere di averlo passato. Tra l'altro è una bella soddisfazione perché su 10 che eravamo realmente ne siamo passati 5, ma 5 di questi, se non qualcuno in più anche, aveva fatto una specie di corso di preparazione, non so cosa, e chi li aveva preparati se li stava vantando, metti qua, saranno i nuovi radioamatori, i nuovi cosi di Cagliari, non so che cosa, baramà, alla fine andiamo a vedere il risultato, poveracci, 3 di questi, cioè la metà non è passata. Vabbè, auguri. Ti ringrazio. E mo, cosa fai, attività radioamatoria? Quando sarà, ma secondo me radioamatore significa radioamatore, nel senso che non è che concettualmente abbandoni determinate frequenze. Diciamo che quello che fino ad ora facevo in un certo modo lo faccio con una maggiore tranquillità, con la possibilità di andare su frequenze un attimino alte, ma non significa che ero lì. La libertà della 27 è nel parlare, è nel poter agire in un certo modo, non me la deve togliere nessuno, capito? Essere radioamatore vuol dire, io concettualmente ti ripeto, lo stesso CB è un radioamatore, diciamo che quando hai la patente sei un radioamatore patentato. Sì, ma io non ho mai avuto questa ispirazione, dico la verità, a me piace la 27 proprio per questa libertà che c'è. L'unica cosa radioamatoriale è che può arrivare in posti più lontani e cose così, però a me mi interessa sino a un certo punto, mi interessa più questo locale che fare DX. DX mi diverto qualche volta, ma non è che mi interessi più di tanto. Ne ho fatto abbastanza, ne ho una scatola piena di QSL, quindi ne ho fatto abbastanza, anche con l'Inghilterra nella macchina, guardate, immaginati. Insomma, guarda, io stavo parlando con le Canarie, però ti ripeto, tu sei meglio di me che quelle lì sono tutte quante QSL pirata, capito? Che magari hanno anche un valore superiore, però per stare tranquillo, ma poi ti ripeto anche per non essere limitato, capito? Poi, guarda, credimi, ho dovuto studiare, e non poco, però secondo me ne vale la pena, dovresti tentarci. Tu per me non l'hai fatto perché ti interessa fare questo radioamatoriale, l'hai fatto per una ripicca e per dimostrare che anche tu ce la faccio. No, assolutamente, no, non è esattamente così, dai. Diciamo che sicuramente è una soddisfazione, più che ripicca si parla di rivalsa. Ma no, cazzo, ma non sai quanto ti costa questa ripicca, come la chiami tu? Cioè ogni volta che scendi a Cagliari per fare una cosa del genere ci sono 20 euro di benzina a scendere, 20 euro a salire, 15 euro di macchina a bollo, 25 euro di versamento, lì devi mangiare, comunque devi pernottare se non vuoi arrivare a partire alle 5 al mattino, no, costa troppo, capito? Sì, anzi, comunque la risatina dice No, assolutamente, è una soddisfazione, ma personale assolutamente, ma non è dovuta a qualcuno, no? È sicuramente una soddisfazione, sei meno limitato e puoi parlare con persone di fuori, puoi utilizzare i ponti, puoi fare tutta una serie di cose che adesso così non puoi fare. Vabbè, tanto la frequenza mi se ne sta proprio sparendo, se ne sta andando, cosa sto a spendere altri soldi, cosa, le cose che ho mi tengono, non mi interessa più ampliare né nulla, quello che ho mi tengo, basta, appunto. Non sono d'accordo, guarda, io ho sentito più QSO ieri in questa frequenza che in altre frequenze dove faccio radioascolto. Aspetta che mi stanno suonando il telefono. Eccolo, ci sei. Gianni. Attenzione Gianni, dove sei Gianni? Sì, Antudaro, sono a bagnare un straccetto per dare una pulitina qua, visto che sto parlando, adesso mi pulisco, così almeno è tutto pulito, sarà tolto da tutto qua, perché a me la sporcizia non è mai piaciuta. Barrazzando stai, e fai bene, la stazione deve essere sempre pulita. No, non sono d'accordo, io credo che se si ha un certo atteggiamento, se si evita di avere scritti stupidi, sicuramente la gente c'è, capito? Secondo me molti sono in radioascolto, non vogliono entrare proprio perché quando sentono che c'è Brea, che c'è, ci sono problemi, non entrano. Io sono quel primo che deve fare ammenda e anzi avrò un atteggiamento sicuramente diverso da in poi. In che senso? Non ho capito. Ho detto in che senso un atteggiamento diverso? Nei confronti? No, in generale un attimino più tollerante, però sai, ci sono delle cose proprio che non riesco a sopportare, degli atteggiamenti che a me non piacciono, a prescindere che perché siano in radio o meno, siccome penso di essere una persona abbastanza sincera, ci sono delle persone che non si sono comportate molto bene, quindi è per quello che ho avuto problemi, è per quello che ho avuto un attimino di scritti. E vabbè, ma quelli sono cose che magari passano, questo sarebbe il momento di fare qualcosa per attirare la gente, fare qualcosa, progettare qualcosa e mandarla a fare. Sai che cosa? Una volta entrando in uno studio medico ho letto un cartello che era molto esplicativo, nel senso mi è piaciuta molto comunque la frase. Diceva questa frase: non fare del bene se non sei nella condizione di poter accettare l'onta dell'irriconoscenza. Cioè non devi fare proprio del bene se non sei pronto davvero ad accettare che dall'altra parte non è che non arrivi un ringraziamento, ma proprio anzi che ti facciano anche del male, capito? Uno calcola che se magari fa del bene almeno almeno diciamo essere trattato bene, spera di esserlo, no? È una frase un po' così, è un po' difficile affrontare una cosa del genere. Ma è pure così, capito? Tu non ti devi aspettare niente dall'altra parte. E fino a quello ci siamo, però quando oltre che non ti aspetti niente, oltre che non vuoi niente, ti arrivano anche cose negative, allora non ci sto più, capito? Quello mi si girano i pipinisti. Ma tu, quello di aspettarsi, io non mi sono mai aspettato nulla, perché se ho fatto volontariato, perché non mi aspettavo mai un riconoscimento, anche perché come fai volontario, sapessi, quello è l'unico pagamento, ed è quello grande, è quello morale, basta. Sì, ma infatti io ti sto dicendo, una cosa è non aspettarti niente, una cosa che invece ti, alla fine, ti fanno anche cose negative, capito? E allora non ci siamo più. Sì, anche a noi ci sono andati incontro, con articoli sul giornale, corriamo con le ambulanze, facciamo questo, facciamo là. È normale che qualcuno che ti sia nelle cose, se no sarebbe troppo piatta la vita. Io quello che ha cercato a me, quello che dà fastidio a volte, è che persone che hanno una certa età si comportino come bambini, soprattutto se quelle cose gliele vai a spiegare. Capito? E soprattutto se poi crei problemi anche a me, perché io ti posso dare dei consigli per evitare che tu ti cada delle stupidaggini, però se uno può fare poi alla fine quello che vuole, sempre che non danneggi la persona che sta comunque in ruota, che sta in frequenza. Tu, il punto è sempre uno, non sono tutti che hanno dei buoni propositi nella vita. Ma non è quello, aspetta che abbasso un pochettino, non è quello, il problema è che nel momento in cui mi danneggi, cioè tu puoi fare quello che vuoi, puoi fare davvero quello che vuoi, ed è proprio la tua libertà, però nel momento in cui la tua libertà lede la mia libertà, allora non va più bene, soprattutto se sei una persona grande, e se sei una persona che di frequenza ha già qualche anno, capito? Ed io non voglio scendere nei particolari, però... E sarà di pulire molla questo straccio. Sono arrivato al secondo piano. Quanti cos'è un grattacielo questa stazione? C'ha quattro piani più il cassetto scorrevole sui computer. Mi sa che te l'ha fatta quella con Bubber, cioè. Progetto. Non lo so io. Ciao già. Ciao tu. La colpa è di chi l'ha costruito con Bubber, a tu. Ciao giù, e beh. Ciao giù. Già, non ti preoccupare perché la colpa non è tua, è di chi ti ha fatto col mobile. Vero, mi? Bella, vero. Soprattutto per quella parte scorrevole che c'è, che ti tocca estrarre fuori sopra la stazione. Ma il problema lo sai che cos'è? Che evidentemente gli hanno fatto troppi ripiani e allora ha dovuto riempirla, capito? Per non lasciare vuoto il mobile. No, è il contrario invece, il problema è che c'erano troppe cose da sistemare e adesso ci sono voluti troppi ripiani. Ah, così è. E allora vabbè. Vabbè già, non ti va a prendere con nessuno, dai. Stai a te, prendere con i pesci magari. Io me lo illustro sempre. L'altro giorno si stava lamentando Davide e dice che non ti ha più visto, come mai? No, ma siamo. Ci siamo visti da poco, sono andato a comprare mangime. Quando l'altro giorno? Sarà lunedì scorso, sì, lunedì sono. No, no, io parlo ancora prima, qualche giorno prima. Allora, la sua lamentela è stata un richiamo, è stato. Se uno non ne ha bisogno non ci va. I pesci stanno nascendo, crescendo, grazie a Dio, c'è un bell'acquario pieno di pesci, non devo più comprarne. Il mangime, diciamo il biocondizionatore, queste cose qua sì, però se non finiscono quelle cose lì, i pesci vanno bene, grazie a Dio. Ma sai cos'è già, se questi pesci tu ne metti tanti, poi il meuble che sostiene l'acquario si può anche rovesciare, cioè o meglio rovesciare, si può distruggere dal peso. È un vero birico. Un vero birico. Ma tu, deve essere la stessa persona che mi ha fatto il meuble della stazione, deve essere quello dell'acquario. Evidentemente. Quanti ne hai di questi pesci? Una fritto misto c'è, c'è già. Eppure mi arrosti. C'è solo un giorno ci dicevo di a Davide se sono arrivate le sardine, lui mi dice sempre non sono arrivate. Quest'anno non ne ho mangiato di sardine, vedi, una bella sardinata non sarebbe male. Quando sono belle, belle grasse da mettere alla graviglia. Te lo credo, sono buone, ma sai cosa ti dico tu? Io naturalmente può essere che mi stia anche sbagliando, ma per me il pesce azzurro è quello più saporito in assoluto, per conto mio, a differenza di tutti gli altri pesci di prima addirittura, che sono anche molto costosi tra l'altro. Giustamente, ma infatti secondo me prese così, direi una bella girata di sale, nel senso ho messo il sale e girate con le mani in modo tale da salarle bene, una bella graticola e vai che ce n'è. Te lo credo, possiamo tenere l'appetito. vabbè, dai, è finito di spogliare. Un piano, male manca. Cosa stavo dicendo? Io le ho mangiate due domeniche fa, fate salamuia. Fate arrosto sulla graticola, poi messo a bagno nell'acqua con la salamuia, aglio, prezzemolo, peperoncino e sale. Messi a bagno così, sono un bijou. Io quando facevo il geometra di cantiere, quando si gettava il primo e l'ultimo solaio, c'era sempre la cena conviviale, il pranzo conviviale con i muratori. Ma tu immaginati una rete di letto di quelle vecchie che inizialmente si usava per filtrare la sabbia, di sotto messa alla brace e dopodiché tutta piena di sardine. Sì, ma poi, guarda, chi lavora in edilizia, la cosola, quello che amano i muratori, che è la ragosta dei muratori, si mette lì a scegliere fra ragosta e anguilla, si mangiano l'anguilla, loro per l'anguilla escono di testa, capito? Vabbè, sicuramente, ma sempre quello anch'io, A questo punto, se parliamo di ragosta con l'anguilla, io preferisco le anguille alla ragosta. E preferisco anche gambe alla ragosta. La ragosta è troppo asciutta per conto mio. Vabbè, asciutta, se la sai fare, nel senso se gli togli le uova e fai quella specie di tingolo che si fa con un po' d'olio da mettergli sopra, non è male, dai. Beh, non sa male, d'accordo, se sei abituato a mangiare veloce, guarda, ti si ferma tutto nella gola. No, assolutamente. Se poi, guarda, di fronte a dei gamberi di quelli di prima, come si chiamano i carabineros, quelli belli con sugo, altro che... Sono migliori, per conto mio, quella sigla L1, quelle che avevo presente da poco, io sono grossissime, sono molto, ma molto buone quelle. Caletti a togliere la carne, buongiorno. signore. Ciao, lo sa. Ciao Antonio, se non hai ascoltato c'è Gianni, io e Antonio, ma non ce ne sa. Capo, buongiorno signore. Sono Antonio Circolari. Circolari, va bene. Antonio Crono, buongiorno anche a te e per Mike. E Crono che sei, ui ui, e beh Sandri, ma sei in macchina? Capo, si conferma, dai, sono qui. Sono qui in scuderia, preparando il cavallo, preparando per cominciare a battagliare di nuovo anche domani. E non lo dire a me, sono arrivato a, ne ho piazzato già una ventina e devo arrivare a 60 prima del 5 del mese prossimo. E vabbè dai, piano piano. Una cosa alla volta, ricordati sempre il passo dovuto, mai il passo più grande della gamba, perché poi comincia o inciampi o te rovesci, eh? C'è ragione, però già lo sai meglio di me, quando fai l'investimento e ti rimane a casa non va bene, capito? No, assolutamente, l'investimento guarda come il pane. Quando cominci a puntare che te ne rimane e poi diventa duro, ti inventi qualcosa, perché poi buttarlo via, lasciarlo fermo, ti dove vuole. Va bene, comunque dai, facciamo girare, chi c'era? Io ti saluto Sandro e vado a fare le cose, perché come devo partire, là. E quindi devo preparare un po' di roba. Ah dai Gianni, faccia la buona, buon proseguo di giornata, diciamo, alle prossime. Mi ascolto, dai, però intanto faccio le cose. Ciao Giulio, ciao anche a Grote, sono sempre qua. Ma dai, buona carica quando la farai, buona domenica, ci sentiamo alle prossimine. Comunque stasera ci dovrei essere in frequenza, dai. Ciao. Riprendi Giulio. Ok, ciao Gian. Sposerà bene il tavolino, non ti dimenticare nemmeno un angolino. Alle prossime, saluti in famiglia a proposito. Va bene. Avanti, adesso, l'investimento che stavate parlando, avete ragione, l'investimento bisogna farlo produrre. Io ve l'ho fatto produrre per 44 anni già, e ci sto ancora continuando, però a un certo momento il mio investimento, quando smetterò del tutto, mi rimane sullo stomaco, perché ci vuole dello spazio non indifferente per poterlo mantenere in disparte, o te lo disfi vendendolo oppure buttandolo via, che ne so, a questo punto non si sa più poi cosa si può fare. Avanti, adesso. Che farai Giulio? Beh, guarda, io ti posso dire che io sono già circa un annetto, quasi circa più o meno, ma guarda, non finisce mai, giorno, notte, sempre battagliando, e forse prima non mi rendevo conto cosa voleva dire essere battagliare da solo e fare il dipendente. Era tutta un'altra cosa, ti facevi le tue 8 ore, rientrava a casa, il sabato e la domenica la passavi con la famiglia, ma quando hai un qualcosa di tuo ti rende più impegnato, ti rende più complicato, insomma, non è così semplice, non dico così dirti. Dopo tutta l'esperienza che ho fatto e dopo le 70 primavere mie, posso assicurarti che io per ora la penso così, è più difficile uscirne che entrare in certi giri, in certi investimenti, perché uno quando deve iniziare al limite, anche se non ha il liquido, cosa fa? Va, firma e piazza. A un certo momento può pensare in questo modo, non ho niente avrò, al limite se mi va male, ma dopo che hai costruito, diciamo così, una bella serie di anni di lavoro, allora a questo punto ti spiace anche buttare via ciò che hai costruito, nel senso che devi smettere per forza, perché purtroppo l'età ti porta a questo, no? E allora viene male, viene molto male, ecco perché dico che è difficile, è più difficile uscirne che entrare in certe situazioni. Avanti, Rode. Però il lavoro come imprenditore è sicuramente più stimolante, perché essere dipendente, è vero che ci sono più rischi, nel senso che quando l'attività è tua ci sono molti più rischi, però oltre al fatto che ti puoi organizzare meglio perché decidi tu i ritmi di lavoro, sicuramente è più stimolante perché è più meritocratico, più lavori più guadagni, capito? E, cioè, dovrebbe essere così, poi molto spesso non lo è, però comunque ti stimola sicuramente di più, Ossa. Sono circolato intorno, non ti do tutti i torti perché lo stimolo diciamo ti viene perché ti viene fuori la voga, ti rende più impegnato, cerchi di curare i minimi particolari diciamo e quant'altro, però devi stare sempre lì a macinare, capito? Devi stare sempre a macinare, non è come il dipendente, io parlo diciamo da esperienza vissuta da dipendente che sì, lavori, ti fai la tua giornata, i giorni di festa te li fai, però quando hai una tua attività che devi seguirla giorno per giorno, curare i minimi particolari, capire quel particolare perché magari non va, perché devi cercare, cioè tutto è messo insieme, capito? E Roger, ma poi sei, i nostri lavori sono correlati, perché realmente in qualche modo io vado contro quello che è il tuo lavoro, lo sai? Vai contro il mio lavoro, in che senso? Nel senso che per il prodotto che distribuisco io con le mie macchine vado contro quello del tuo lavoro. Sì, vabbè, ma non c'ha niente a che fare, diciamo, con il mio prodotto. No, il problema è che è direttamente correlato, capito? Perché fra i prodotti che distribuisco anche preservativi, e se non nascono bambini tu sei fregato. Ah beh, su questo senza ombra di dubbio, su questo ti do pienamente d'accordo, ma non è quello il discorso, adesso vabbè, a prescindere diciamo che questi logicamente sono mesi morti, li chiamano per chi ha un'attività, questi sono dei mesi morti, poi a parte la situazione, a parte la crisi e quant'altro, insomma tutto le messe insieme ti fanno ancora più battagliare. Chiaramente stavo scherzando, ci mancherebbe, però uno dei prodotti distribuiti è anche quello, capito? Più che altro però sto andando sugli spazzolini che stanno dando buoni risultati. Sì, beh certo, guarda, io ho sempre cercato sulla concorrenza diciamo di non metterci piede, non metterci il naso, se vedo concorrenti a 50 metri logicamente ognuno decide del proprio prodotto, del proprio coso, cercarlo di lavorarci sopra, capito? Tutto sommato la fortuna, a parte quella che può avere o non avere quando nasce, se la deve anche creare, questo è fuori discussione, perché io appunto una certa esperienza in questo ce l'ho, tu pensa dopo anni che io ero lì in quella strada, di fianco a me se ne è piazzato un altro con il mio stesso mestiere. E quindi cosa hanno fatto? Hanno fatto la fame per un anno e mezzo, erano due fratelli in società, poi si sono bisticciati, si sono anche azzuffati e hanno dovuto dovuto lasciare l'attività. È subentrato chi? Sempre in quel magazzino, in quel locale, è entrato un altro della stessa, dello stesso mestiere, chiaramente, perché ha acquistato tutti i macchinari e li ha praticamente sostituiti le persone precedenti che c'erano. A questo punto, che cosa è successo? È successo che io una certa preoccupazione, sinceramente ce l'avevo, perché ma questo si è messo vicino a me, adesso non lavoro né io né lui, perché magari ci facciamo concorrenza a vicenda. Ho avuto modo di parlare con un amico che lui lavorava in proprio prima di me, anche perché ha qualche annetto più di me. L'unico consiglio che ho dato, dice, il consiglio che ti posso dare io, qual è? Quello di aumentare un tantino i prezzi sul prodotto che tu fai. Ho detto, ma così io faccio il gioco di questa persona che si è messo qua accanto a me? Ho detto, no, non è vero, guarda, stai sbagliando. Provaci, al limite poi c'è sempre tempo per abbassare i prezzi. Beh, così ho fatto. Ho aumentato il prezzo di qualcosina e devo dire che a quello l'ho distrutto, proprio distrutto. Fratello è stato degli anni, una decina d'anni lì con le mani conserte sulla porta, aspettando che venisse qualcuno a ordinargli un lavoro. Naturalmente tutto questo, tutto lo crea come? Con la buona volontà intanto di lavorare, con la serietà, con il buon trattamento verso i clienti e soprattutto con la buona professione, perché se non possiedi tutte queste doti, stai tranquillo che non farai mai niente. Ma è anche Però questo mi è capitato anche a me nella mia, nell'altra mia attività. Sì, la gente valuta e valuta molte cose, molto spesso alzare il prezzo ha i suoi vantaggi anche dal punto di vista psicologico, nel senso che la gente vede la cosa come non scontata, perché la cosa che costa troppo poco, chissà perché mette comunque in allarme, perché evidentemente dice non lavora in un certo modo, capito? È stato un consiglio assolutamente intelligente e vedi che poi ha portato i suoi frutti assolutamente. Devo chiedere un attimino di QRX perché devo andare a bere un bicchiere d'acqua, ci sentiamo fra 2 minuti esatti, dai, riprendi Sandro. Ok, Anto, dai, e io sono quasi arrivato. Sì, ma è così, oh Giulio, non ti sbagli. Evidentemente la tua esperienza ti ha insegnato, di quello che stai operando con lui, che sia tutto la luce del sole, che sia tutto trasparente, inutile stare lì, fargli credere male monti che poi logicamente crei dei dubbi e poi quei dubbi vanno a finire male. Quindi sulla concorrenza io sono molto molto diciamo negativo, in quanto mai andrei su un concorrente a piazzare un qualcosa di minimo. Infatti è così, ma devo dire che oltretutto non è che era solo quello che era a di fianco a me, ma proprio quando io al 29 e lui al 31, ti puoi immaginare quanto eravamo distanti, praticamente ci vedevo il portone d'ingresso del palazzo e basta, niente di più, la mia servanda e la sua servanda, eravamo uno tutto accanto all'altro. Io una cosa così non l'avrei mai fatta, non mi sarei mai aperto un'attività dallo stesso mestiere in una seconda accanto ad un altro che già la esercitava, quel mestiere lì. Beh, assolutamente. Però posso dire anche addirittura questo, che nel circuito, diciamo così, limitrofo, dove ero io, cioè via Cevi, via Lurra, via Pietromica, via Fumeraggio, tutti quanti hanno tentato un tanto di fare lo stesso lavoro e ce ne sono passati almeno 6 o 7 di astigiani così. Beh, ti dirò che tutti quanti, tutti indistintamente, dopo un paio d'anni massimo chiudevano. Io, grazie a Dio, 44 anni nello stesso locale, mi sono invecchiato lì, ti puoi immaginare, capito che sa. Perciò questo è cos'è stato? È stato più che altro la volontà che ho avuto io, intanto non la possiamo fare un lavoro, perché i miei 70 più lavori e signori dovessi valutare a pieno e tutte le ore di lavoro che ho fatto, non ne ho 70 ma ne ho minimo 90. E tutto questo naturalmente poi mi ha portato un grande beneficio, secondo me. Riprendi Alessandro, non riesco più a sentirti, è troppo basso, c'è guarda, non riesco a sentirti, ti si è allontanato. Alessandro, non ti sento, se mi stai ascoltando non ti sento. Ti saluto se mi stai ascoltando, allora a questo punto, se non ti sento. Sì, avanti a tu. Antonio, già mi sono, non mi sentivo più, ho detto, ma cosa è successo? Oh, ok, già. Siccome si è allontanato, mi ha allontanato un attimo e ero rimasto con Alessandro, ma Alessandro, essendo in movimento, si è allontanato e non lo sento più. Ciao, paga, ma sentivo delle voci che splatter, pensavo che fosse un FM, e infatti sono andato a vedere a controllare e non ce l'avevo. Questa è la preparazione, anch'io lo sentivo, ma era addirittura sullo stesso canale, ma preparazione, o perlomeno sullo stesso canale, ma in FM o banda laterale, non lo so. Ma pensavo fosse in FM. Avanti, Grudino, là, mi sto preparando. Io volevo chiedere un consiglio invece giù. Per fare, allora tu immaginati una sezione, un pezzo di, diciamo, di legno che dovrebbe essere tra l'altro mogano in sezione circolare, cioè un paletto, diciamo. Se gli devo fare lateralmente uno scasso circolare lo stesso, che cosa mi conviene utilizzare? Una tazza? No, spiegati meglio, perché in questo pezzo, perché secondo me, io ti posso dire, fino a 20 centimetri, 22 lo posso fare addirittura senza il turno, però deve essere una cosa forata da poter inserire in un albero della macchina. Spiegati meglio cosa vuoi fare. Allora, hai presente una gamba di un tavolo, tu tagliane una sezione pari a, cioè un palo, che ha un diametro di aspetta un attimino che lo misuro, dai, ti dico esattamente. Allora, tu immaginati, è di faggio grezzo, però credo che sia autoclavato in modo tale che non si dilatti. Morale è un tronchetto che 30 cm per 5 di diametro, circolare, quindi. Io gli devo fare uno scasso laterale che sia di circa 2 cm e mezzo, quindi quasi della metà del diametro stesso del coso. No, fai che questo sia 6 cm, lo scasso è da 2 cm e mezzo, quindi rispetto al centro gli lasci mezzo centimetro e dopodiché deve fare questa specie di scasso sempre circolare, lateralmente chiaramente. Lo scasso è lateralmente, cioè circolare, non è in verticale su questo tronco che stai parlando. Allora, aspetta un attimino che ci chiediamo, perché in breve deve essere pari alla lunghezza, tutta la lunghezza del pezzo, capito? Ecco appunto, tutta la lunghezza del pezzo significa che lo devi fare in verticale, questo sarà. Tu hai un ciclo, cioè un tronco rotondo, circolare, di 30 cm, però devi fare in verticale a questo pezzo, devi fare uno scavo da 2 cm, confermi? Cioè gli devo fare uno scasso che abbia un diametro di 2 cm e mezzo per tutta la lunghezza del pezzo stesso, capito? Sì, appunto, è semplicissimo. Ora io non so di quale attrezzatura tu disponi. Disponi di un'attrezzatura di un pantografo, tu non disponi? Negativo, non ho copiato bene di un pantografo, è una fresatrice da banco praticamente. No, negativo pantografo. So che cos'è, però come fai a utilizzarlo per fare uno scasso come quello? Lo utilizzi mettendo delle guide appropriate attaccate al tronco e dopodiché passandoci quello a chiamano tutti da un lato, naturalmente dopo aver preso tutte le distanze necessarie, perché la frenatrice, cioè il pantografo, l'albero centrale e poi ha delle distanze lo dà da ottenere, mettendoci una fresa da 2,5, io non lo so se ce l'ho a quel punto lì, ma io ho altre possibilità, oltre al pantografo ho anche altre possibilità con la macchina grande, capito? Non è un problema. Allora, ma diciamo che facendolo così in maniera che non sia professionale, lo puoi fare proprio con questo pantografo, o perlomeno lo puoi fare se hai anche una macchinetta circolare, se ce l'hai una macchinetta circolare da banco, lo puoi fare anche con quello, naturalmente poi ti spiegherò come. Davvero, Giro. Sì, ti ho capito. Chiaramente, vabbè, sì, il pezzo che ci deve andare dentro, perché deve far sì che devo costruire una dima che raccolga delle capsule aventi la lunghezza di 8 cm e il diametro di 2,5, quindi almeno devo prendergli qualche millimetro in più, cioè da 2,5 di diametro lo devo portare almeno a 2,7, 2,8. Adesso, una fresatrice, anche se per io non ho una fresatrice da 2 cm e mezzo, può essere anche una fresatrice anche più sottile, anche da un centimetro, per dire, lo fai due volte, un po' da una parte e un po' dall'altra, visto considerato che tu devi fare questo scavo in maniera verticale su questo tronco, capito? Naturalmente devi fare l'appoggio sia da una parte che dall'altra, prima da una parte e smetti, poi sposti il pezzo d'appoggio, lo fai dall'altra e poi lo fai alla parte centrale, dipende anche dalla fresa che usi o che disponi, capito? E una cosa ti volevo chiedere, ma come legno, come il faggio? Se il faggio è preparato, è un ultimo faggio, cioè un ultimo legno, perché si parla di un faggio durissimo, estremamente compatto come puri, tanto è vero, l'unico legno, e lo voglio sottolineare, a differenza di tanti altri che magari usano anche del rovere, eccetera, tu riesci un tagliere che noi usiamo per tagliare la carne, per queste cose qua, poi a un certo momento che cosa succede? Ti spiego un fatto tecnico, no? Se il legno è poi aperto, tutto il succo e tutto il residuo finisce dentro il fuori, no? Allora a questo punto, anche se tu lo lavi il legno, lo puoi lavare come ti pare, gli piace, va dentro il fuori, c'è e ci rimane lo sporco, mentre invece nel faggio tutto questo non succede, perché è un legno compatto, non ha i puri aperti, però c'è un problema: se questo materiale viene usato, per dire, per fare degli incollaggi, vedi le sedie, le avrai notato che le sedie si scollano continuamente, attaccano, sì, però attaccano per un certo periodo, anche per alcuni anni, ma dopodiché si scollano, allora devo rincollarle. Tutto questo perché succede? Per il semplice fatto che il legno ha i poli chiusi, cioè compatti, e non penetra la colla all'interno, di conseguenza perde un'aderenza, non indifferente, capito? Campa di Roggero, ascolta, le frese dove si possono comprare, dove chi è che c'è un buon assortimento? Ma le frese intanto devi avere prima di tutto la macchinetta, la macchinetta da Ubisa le puoi trovare anche da Vico, come sempre quello ci sono, che forse il posto dove costano di meno, perché se ti dovessimo andare ad esempio da Palmieri, lì costano, ma sono attrezzature professionali e costano molto, dipende da te anche per quello che tu vuoi spendere, capito? Ho capito, ma sai, siccome di solito dove vendono le macchinette, siccome l'ho vista una fresa che costa poco, la macchinetta sto dicendo, però l'assortimento lì da Palmieri ne hanno, sì. Certo che ne hanno, come no, altro che, certo, ma se è per quello, se è compatibile con le fresette che ho io, per dire te la posso contestare una fresa, non è un problema, ma devo essere compatibile con la macchinetta che hai, capito? No, da questo punto di vista cose in prestito non ne voglio, ma perché una volta mi era capitato di prendere una cosa in prestito, di romperla, sono dovuto andare a ricomprarla e questo qua mi aveva prestato una cosa giustamente professionale, perché era una chiave della Betta di un certo tipo e mi era uscito il conto, quindi da quel giorno ho detto boh, in prestito più niente. Quindi quindi preferisco magari comprare qualcosa di meno professionale rispetto a quello che hai tu, però di evitare di stare lì con lo stress che magari te lo posso rovinare, capito? Ho capito, sì, io apprezzo la tua delicatezza, la apprezzo, non ci sono dubbi, però non è detto che si debba per forza rovinare, può succedere, certo, tu hai ragione di essere prudente in quella maniera, ma al limite ti puoi prendere difficoltà, però appunto, a meno che non sei tu che lo vuoi fare personalmente, la soddisfazione di farlo personalmente, se lo porti a me lì, e nel caso te lo faccio io, non se ne parla più. Adesso vedo, se ci riesco sicuramente, se non ci riesco sarei il primo a saperlo, è che ne devo fare parecchi di queste cose, capito? Nel senso che mi servono appunto per queste macchinette meccaniche, perché devo sostituire un pezzo che è di plastica e ho capito che il legno sarebbe un buon surrogato per poter costruire questa cosa. No. Ok. Chi era? Ma come dico, cos'è? La preparazione o qualcuno che vuole entrare? Avanti, chi è? Forse a propagazione, mi è sembrato qualcuno da lontano che volesse entrare su questo canale, capito tu, perciò va bene, vai. Il faggio, ricordati, però deve essere evaporato, perché se il faggio crudo non va bene, il faggio deve essere evaporato, cioè praticamente è asciutto con un rosatello, in poche parole. Ma questo mi hanno detto che addirittura è autoclavato, nel senso messo in autoclave, e per cui dovrebbe essere trattato a tal punto da non creare problemi dopo. Infatti deve essere così, infatti deve essere così, è vero. Sì, perché quell'altro, quello crudo, che cosa succede? Poi quello stagionandosi col tempo è soggetto a spaccature e tutte queste belle cose che naturalmente ti rovinerebbe il lavoro che tu fai. E poi non. Già è difficile incollare il faggio quando è evaporato, figuriamoci quando sarà bagnato. Sì, ma se sai quanto l'ho pagato, capisci che sicuramente mi hanno fatto un prezzo da autista, però è una vergogna, Tu immaginati 30 centimetri di legno, di pezzo di legno, per 5 di diametro, sai quanto me l'hanno fatto pagare? Quanto? 15 euro? Non 12, 8,50 euro. Ma che ti vuoi complicare la vita, brutto? perché complicarsi la vita? Uno deve essere diciamo così, una persona eclettica nella vita, perché deve fare tante cose secondo me l'uomo, anche perché dall'uomo non sfugge niente, sicché non è detto che se uno non tratta quel materiale per professione che non possa addentrarsi in un settore hobbistico eccetera, per il meglio lasciamo fare, fai così a tu, che essere eclettici è importante. Ma guarda, la poliedricità di una persona sicuramente conta, però io sono anche di quelli che ad ognuno usa arte sua, così si dice. Il discorso, perché uno mi ha detto che si mette a fare del lobbismo, che deve per forza fare le cose perfette, come le può fare uno nel mestiere specificamente, no. Però questo, nessuno ti può proibire di passare il tempo anche facendo cose mistiche, capito, di qualsiasi genere, questo è un altro discorso, la professione è professione, questa non si discute, poi ci sono anche quelli che la gente fa la professione e sono ciappi lui al tuo, non te lo dimenticare mai. No, assolutamente, ma sai che cos'è? Che questo qua è un pezzo che andrebbe all'interno di una macchina, quindi è soggetto a talmente tanti ritocchi al fine di poter funzionare bene, che dovrei arrivare lì in botte garante e starci una settimana prima di farlo funzionare bene. Invece così piano piano a casa me lo faccio, me lo limo piano piano a carta vetrata, dopo aver fatto lo scasso e vedo un attimino se riesce a funzionare. Perché basta poco che non prende il pezzo, non eroga più il pezzo e si blocca la macchina. Ho capito, sì, poi bisogna vedere quando si tratta di macchine, la meccanica, se il legno è in grado di sopportare gli sforzi meccanici, eccetera, tutte queste cose. Una volta, ricordo, ci faccio fare il pistone di legno nelle macchine, questo è vero, non ci sono dubbi, sembra un paradosso, no, però è così. Le prime macchine si facevano con il pistone di legno, ma ormai quei tempi sono finiti anche. Assolutamente sì, assolutamente. Mi dovete scusare di nuovo un attimino, però sto prendendo freddo, vado un attimino a mettermi qualcosa di più pesante. Riprendi Gianni, se sei ancora in ruota. Già ci sono io. Vai. Ma non c'è chiaro. Ma perché? Fatti scaldare. Vai. Dai, la mattina presto già. Lascia stare, dai. Una battuta. Qualche dubbio ci potrebbe anche essere, avete considerato adesso che stanno andando chiusi, poi diciamo giudica tu già, boh, non so. Ma io se dovessi guardare come sto io non mi verrebbero dei dubbi, perché io sto sempre a petto nudo e in cartone. I calzoni del pigiama e qua petto nudo, perché tranne in questo periodo mentre c'è un po' di freddino, allora la parte di sopra me la metto, però normalmente quando torno dal lavoro mi lavo, mi metto i pantaloni e a petto nudo. Diciamo adesso già un po' c'è freddo, quindi ne sto approfittando a mettermi anche la parte di sopra, però solitamente l'estate sto pure. Certo già. No, ma io sono uguale così, anch'io adotto questo sistema qua. Poi essendo compagno di Antonello, sia tu che io, Antonello Dettori, no? Lui che è sempre in calore, in pieno inverno a maniche corte con una magliettina, dice, ma non è freddo, io non sono freddo. Te l'avrei conosciuto in quel modo lì, no, Antonello? Cosa ti stavo dicendo? E quel dentista che si faceva il bagno a Plattamona, te lo ricordi? Me lo ricordo, sì. Tu pensa che quando io ero ragazzo, lui aveva un studio di fronte al negozio dove lavoravo io, praticamente il Lupi vecchio, quello del corso, quello su, lui abitava lì, aveva uno studio, aveva lì, si chiedeva Mariale, quando ero bambino io l'avevo già conosciuto da allora, e magari si era toccato a caldo però a me. Ma te lo ricordo. Sai, quando non me lo ricordo, quando mi sfugge, aspetta se mi viene in mente, vabbè se mi viene in mente di Attenuico, ma non me lo ricordo, non me lo ricordo proprio. Mi ricordo che a Plattamona andavo in pieno inverno, all'Africa, scendeva la macchina, si metteva il costume, si faceva il bagno, si rimetteva in macchina subito, boh, era proprio quasi a capo quello lì era. Aspetta com'era, porca miseria, c'era sulla lingua ma non mi ricordo il nome. Vabbè, se me lo ricordo già te lo dico, sempre con sigaro in bocca, sempre fumando, io di era, E maniche gocce sempre, potessi freddo che anche di voi, ma c'era sempre maniche corte. Ma sempre, quello sembrava come... ma sai perché? Perché quello lì, la mattina presto, aveva sempre il cicchetto vicino, mi non pensare che... Vabbè, tu mi dai, ma forse il cicchetto lo scalda, e... Vabbè, ma forse si imbragava e non sentiva freddo per quello, perché era cosciente. Ma io se mi pongo a male che cosa che ando per freddo, pur soffrendo molto il caldo, mi viene il raffreddore, la tosse e cose, sono una persona normale, a lui invece non gli veniva nulla. Perché lui aveva il calorifero interno, aveva le macchine aperte, sempre con i cuori abbastanza forti, lui ogni 5 minuti si faceva il cicchetto. Allora, non te lo mandare così, lui era simile, il cicchetto, ha passato la sua vita così. Chi si faceva il cicchetto allora ci aveva il corpo in caldo. No, aveva il riscaldamento interno. Non so, ti puoi modulare. Non avevano ricordarmi come si chiama, porca miseria, non me lo ricordo proprio, guarda. Sì, boh, aspetta. No, stavo pensando a un nome, non è quello. No, non me lo ricordo già. Ecco, io lo sapevo come si chiama, non me lo ricordo più. Magari qualcuno degli anziani se lo può ricordare meglio. Beh, sì, sicuramente. No, ma lui l'ha conosciuto a Sassa ieri, l'ha conosciuto da tantissima gente, guarda. Era un nome a livello, tanto per fare un nome di un altro sassarese, a livello di spada, il pittore, eccetera. Era quello di Venurini, era popolare a quello di Fidelio. Oh, addirittura lui veniva in Trapalette, ricordi il Trapalette? Ah, Trapalelli, ricordo la storia, ma non l'ho mai conosciuto io a Trapalelli. Già, tu sei giovane, io non l'ho conosciuto. No, anche perché sempre in quel periodo, allora Trapalelli saliva al corso, ed era appunto una specie di emblema di Sassari, era una figura molto, ma molto nota di Sassari, come non era... Aspetta, niente, non mi ricordo, eppure stavo sulla lingua, ma non mi ricordo il nome di quel dentista. No, non mi viene già. Sì, vabbè, ci abbiamo capito chi è così. Sì, signor Lagune, abbiamo capito, e come? Ma era stravagante, però era una brava persona, io l'ho conosciuto moltissimo, è una bravissima persona. Non lo metto in dubbio. Ma è ancora vivo? Vivo no, è morto, io so che è morto da anni ormai. Cappagano. Anche di un'altra persona che è morta da poco, dicevano che era morta da anni e cose, dopo io me l'ho vista davanti, per poco non mi venne un raio. No, non lo so. Chi era? C'è qualcuno che vuole entrare? C'era una sirena sotto la tua modulazione. C'è qualcuno che vuole entrare? No, forse era la propagazione. non lo so. Io so che è morto, poi. Di Gesuino Cosetto, vero che è morto? Sì, quello è vero, sì. È vero, è morto quello, Gesù è morto, sì. Beh, Leoncino insiste che l'ha visto via Giovanni Pascoli pochi giorni fa, che non è vero che è morto. Avrà visto un fratello. Il fratello è sempre lì, Giovanni è sempre, quello che sta sempre andando avanti e indietro, parlando da solo, no, quello lì è Giovanni, il Gesuino no, è tutta un'altra cosa. No, è pure morto, Gesù è morto, sicuro, al 100%. E pensare che con Giovanni, quando eravamo ragazzi, giocavamo al calcio nella stessa squadra. Tu pensa che Giovanni lì è malato, poveraccio. Intanto è diplomato, intanto no, prima di tutto. È anche sposato ed ha anche un figlio, sì che ti puoi immaginare. Poi la moglie, quando lui si è malato, perché è un fatto genetico, no, di quella famiglia, di una persona certa età, si ammalavano col mondo, si ammalavano tutti quanti, sono malati così. Anche il padre a un certo punto era così. E allora la moglie, visto che si è malato, l'ha lasciato, l'ha abbandonato, capito? E lui ha fatto la fine, gli ha fatto, che è sempre lì così, capito? No, io il padre già lo conosco, quando faceva la comunione in chiesa diceva amen. Ma aspetta, io sento una sirena, quando tu muovi i trapporti, cioè io sento una sirena leggera al fondo, e poi quando tu schiacci la portante allora te la porti dietro, cioè più grande tu la aiuti, la spingi di più. La senti già? No, negativo. E questa sirena, guardami, aspetta che te la mando io, e questa sirena qua, uguale. Sentita? È una chiamata del 5024, quella lì, quella sera, ma è continua, quando tu schiacci non fai altro che amplificare il suono. Aspetta, prova silenzio. Sì, ma prova a vedere quando schiaccio io se tu la senti. Vai. Ragazzi. Eppure c'è una sirena che tu tramite la tua portante non fai altro che amplificarla. Ma non è una cosa della tua voce, prova a cambiare canale, passa a prima al 7 e poi torniamo qua, prova a che sia per quel motivo lì, che sia il canale, boh. 7. Kappa. Ecco. Eccoci. Stavo leggendo questa cosa allucinante. che questa donna praticamente arriva rispetto al suo ginecologo e dice: dottore, lì mi deve aiutare, è un problema molto, ma molto serio, mio figlio ancora non ha completato un anno e io sono di nuovo incinta, non voglio altri figli. Aspetta il telefono. Ok.